innanzitutto vi ringrazio tantissimo di essere numerosi a questa iniziativa della Biblioteca Provinciale, che negli ultimi mesi è di casa qui a Trevi. Siamo anche molto contenti. Certo che... No, noi siamo dei migranti per vocazione. Nomadi. Siamo dei nomadi per vocazione. E ringrazio tantissimo i nostri ospiti. Abbiamo con noi Asmae Dahan, che viene da Ancona. Lei è di origine italo-siriana e questa sera ci racconterà delle cose con il tempo, con un tempo giusto per raccontare delle cose di questo genere, no? Il titolo, il sottotitolo è Siria, una tragedia dimenticata. Ci pensavo proprio in questi giorni, no? Questa biblioteca ha fatto un percorso quest'anno dedicato anche al problema dei flussi migratori, a quello che sta accadendo nel mondo, alle guerre più o meno dichiarate o accettate così dall'immaginario collettivo di cui abbiamo coscienza. Però che cosa ci rimane se non leggiamo qualcosa o non ascoltiamo con la necessaria calma e attenzione qualcuno che ci possa raccontare veramente quello che sta accadendo? Quasi niente, delle immagini, dei flash, perché spesso, e non me ne voglia Mauro che è qui con noi questa sera, però nei telegiornali le informazioni sono molto rapide, sono sensazionalistiche, poi non è che ci si porti poi dietro un pensiero o si sviluppi un'idea di quello che sta accadendo, così come per i flussi migratori e via dicendo. Allora abbiamo pensato, grazie all'invito, all'offerta che ci ha fatto Marina Baraus e anche Paola che è qui presente, di provare invece a ragionare, ad avere un ospite che ci racconti come stanno le cose, sia una testimone diretta di quella che è la tragedia che appunto si sta consumando in un paese vicino a noi. Marina Baraus lavora, professionista ad Ancona, ma collabora e volontaria in un'associazione che appunto si occupa della tragedia siriana, e abbiamo con noi questa sera anche Mauro Keller che ci aiuterà in questa serata come moderatore in qualità appunto anche di giornalista di una emittente che conosciamo tutti, locale, e che opera da anni sul territorio. Vi ringrazio di essere qui con noi, queste iniziative sono sempre per noi un'occasione per favorire delle riflessioni e soprattutto delle letture, e quindi abbiamo presentato una piccola parte dei libri che possono essere legati o possono essere d'aiuto anche per poi continuare ad andare avanti con la conoscenza su questo tema, relativamente a questo tema. Grazie, vi cedo la parola e buona serata a tutti. Allora, brevemente ha già presentata Valeria. Asmae Dahan, giornalista italo-siriana, ha vinto tanti premi, non li cito tutti, scrive per Il Fatto, scrive per Panorama, ha fatto dei bellissimi reportage anche di recente, non solo sulla Siria, anche sul movimento jihadista in Europa e quant'altro. Marina Baraus, ex mia compagna di classe, una di quelle cosiddette donne multitasking, super impegnata, uno dei suoi tanti impegni, oltre ad avere una famiglia numerosa, è con l'associazione Onsur, di cui parleremo più tardi. Il titolo della serata, l'ha già detto Valeria, è La tragedia dimenticata. Mi permetto di correggere, è una tragedia un po' sconosciuta, ne parlavo prima anche con Asmae, perché come spesso accade, le guerre che non sono proprio molto molto vicine a noi, ma devono essere dietro la porta, perché le conosciamo molto bene, le sentiamo molto lontane. È successo con i Balcani, con la Libia, Nord Africa, ovunque. La Siria poi ha questo problema di essere una guerra molto molto complessa. Noi colpevolmente conosciamo poco questa storia, questa guerra. Devo dire che anche chi ha in mano un po' il joystick del risico mondiale non è che si interessi molto. Barack Obama, premio Nobel per la pace nel 2009, il 20 settembre scorso ha tenuto un discorso, forse il suo ultimo discorso, innanzi all'Assemblea delle Nazioni Unite a New York, un bellissimo discorso, tanto di applausi, 50 minuti, qualcosa come 36 secondi sono stati dedicati alla Siria. E dopo la seconda guerra mondiale, Asmae, correggimi se sbaglio, probabilmente se non la più grande, una delle più grandi catastrofe umanitarie. Secondo l'ONU la più grande. Secondo l'ONU la più grande, sono statistiche che valgono quello che valgono, però siamo già a quota 500.000 di morti, 2 milioni di feriti, credo 10 milioni di persone senza casa, il 50% della popolazione siriana. Quello che dicevo prima con Asmè è: non diamo nulla per scontato, perché non tutti sanno la storia di questa guerra. Allora ti chiedo prima un breve excursus, magari partendo anche da un aneddoto. Allora, mi sembra di ricordare che l'inizio di questa cosiddetta guerra civile sia riferibile alla metà di marzo del 2011. In realtà, una decina di giorni prima successe qualcosa a Daraa, correggimi se sbaglio la pronuncia, una piccola protesta di studenti adolescenti. Ok, grazie, buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori di questa iniziativa, in particolare ringrazio Marina e Nadia che oggi sono venute ad Ancona insieme alle loro figlie per accompagnarmi insomma in questo incontro. La tragedia siriana ha un inizio molto prima del 2011 in realtà, perché parto da un dato di fatto, che noi abbiamo la stessa famiglia al governo da quasi mezzo secolo, la famiglia degli Assad, e questo ha influenzato moltissimo quella che è la cultura, la politica, la società siriana. Si sono passati il testimone di padre in figlio, quindi un regime liberticida, un regime che ha messo le mani sulle ricchezze della Siria e che ha lavorato sempre moltissimo con la logica del divide et impera. Come sapete la Siria è un mosaico di culture, di etnie, di religioni diverse, tanto che le grandi religioni monoteiste sono nate e hanno lasciato dei segni molto importanti in Siria. E tutt'oggi sopravvivono in Siria gli unici due villaggi al mondo dove si parla la lingua di Gesù Cristo, l'aramaico, per cui la Siria è un microcosmo di culture e di umanità. Ciò che è accaduto nel 2011 è stato, diciamo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché appunto 50 anni sotto un regime sono tanti, significa che ci sono almeno 3 generazioni private della libertà, dei diritti civili, dei diritti politici, e significa soprattutto che c'è un malcontento che la gente non può esprimere, perché in Siria vigeva il cosiddetto regime di coprifuoco, che impediva di fare manifestazioni, quindi una protesta significava necessariamente essere o uccisi o arrestati. Non c'erano partiti d'opposizione, non c'era appunto la possibilità di dissentire, perché poi si finiva nella rete dei cosiddetti Mukhabarat, che sono i famigerati servizi segreti siriani, una rete di militari e paramilitari molto capillare, molto ben funzionante, che faceva sentire i siriani intrappolati. Quindi i siriani stavano attenti a parlare tra di loro, i siriani stavano attenti a parlare al telefono. Mi ricordo, parlando di aneddoti, una volta parlando al telefono con una zia che mi chiedeva quando vieni in Siria a trovarmi, e io da adolescente ingenua le ho detto quando finisce il regime. Pum, cade la telefonata, mio padre sbianca, mia madre anche, e poi ho capito negli anni insomma che quella mia frase detta ingenuamente poteva per loro rappresentare un pericolo, perché le telefonate sono intercettate, quindi c'è proprio un regime di controllo della popolazione. Nel 2008 poi in Siria è iniziata una siccità tremenda in tutta la zona del Medio Oriente, e la siccità ha inasprito gli animi delle classi sociali più povere, quindi già c'era una distribuzione delle ricchezze fatta molto male, c'erano queste discriminazioni. Gli studenti, quindi la generazione di internet, viveva in un mondo in cui non si riconosceva, perché da un lato su internet ha scoperto la libertà, il pluralismo, che esiste la possibilità di esprimersi, poi nel concreto aveva paura di mettere una foto su Facebook, di dire una frase in più. La siccità del 2008 fa esasperare gli animi, quindi le classi meno abbienti soffrono, che sono le classi che devono pagare chiaramente molte tasse ma che hanno pochi diritti. E in Siria si era diffusa una malattia che sicuramente ha penalizzato moltissimo tutta la popolazione, che era la malattia della corruzione. Tutto funzionava con la corruzione, per cui se io fossi stata in Siria e mio figlio fosse nato in Siria, io ho un figlio di 18 anni, per evitare che questo figlio fosse prelevato con la forza per andare a fare il militare, perché il servizio di leva obbligatorio dura 3 anni, bastava che pagassi una rashwa, cioè una tangente. Quindi tutto funzionava con questo sistema delle tangenti, la sanità funzionava con le tangenti, per cui non era una società serena. Accade che nel 2010, lo ricordate, parte da Tunisi la cosiddetta primavera araba, anche lì la protesta di un giovane, Mohamed Bouazizi, che si dà fuoco perché per l'ennesima volta è stato maltrattato dalla polizia. E questo gesto di questo giovane pacifico che non aveva armi, che protestava solo per chiedere di lavorare, infiamma comunque gli animi di tutti i giovani della Tunisia, che anche loro vivevano sotto un regime dittatoriale da diversi anni. La Tunisia poi, le cosiddette primavere, come avete sentito, c'è stato quasi un effetto domino, quindi si è espanso questo movimento di protesta e tutti dicevano: alla Siria non toccherà mai. Perché? Perché si sapeva che in Siria protestare significava rischiare la vita e quindi nessuno si sarebbe immaginato che anche in Siria potesse arrivare il vento della protesta. Scusate, sono raffreddata. Questo me lo porto dietro. Ma quindi che cosa succede? Succede che però intanto soprattutto tra i giovani siriani sta crescendo la consapevolezza. La televisione di Stato censura chiaramente le proteste di altri paesi, quindi non fa vedere piazza Tahrir in Egitto, non fa vedere le piazze della Tunisia e addirittura viene firmato un decreto per cui devono essere eliminate tutte le antenne paraboliche. E poi trovate di tutto quello che vi sto dicendo, trovate una conferma in un libro che ho suggerito infatti anche alla biblioteca, che si chiama Siria, di un autore italiano, di un giornalista italiano che si chiama Lorenzo Corvetta. Quindi potete andare a verificare, lui è un giornalista che ha vissuto in Siria, che vive ancora in Libano, quindi opera lì, conosce la realtà siriana meglio di noi siriani e quindi potete rileggere tutto questo percorso attraverso i suoi libri. Quindi questo decreto dice che per il decoro urbano devono essere tolte tutte le antenne paraboliche, in realtà è un metodo tra l'altro piuttosto infantile per cercare di oscurare quello che accade vicino alla Siria. Però esiste internet e internet è difficile da oscurare perché ogni volta che il regime oscura un sito ci sono tutti gli studenti di ingegneria informatica che riescono comunque a sbloccarlo, quindi era un tira e molla continuo. Per anni YouTube, Facebook sono stati oscurati e poi riaperti, per cui i giovani avevano visto e si erano resi conto che la piazza è una forza. Avevano anche sentito gli slogan che venivano ripetuti in queste piazze e uno degli slogan più belli, che segna anche un cambiamento nella coscienza delle giovani generazioni arabe, era: il popolo vuole la caduta del regime. Quindi per la prima volta dopo quasi 50 anni in cui questi paesi sono stati governati quasi tutti da dittature, la gente si rende conto che il popolo è una forza, che il popolo è una voce. E che cosa accade? Perché parliamo di Daraa? Accade che Daraa, che è una cittadina del sud della Siria, vicino alla capitale Damasco, un giorno dei bambini che avevano... Scusa, credo qualche problema relativo ai profughi che venivano dal nord per via della siccità. La Siria, sì, Daraa è una regione agricola, quindi una delle regioni che ha subito questi problemi della siccità, una delle regioni che è stata espropriata delle sue terre, una delle regioni che ha accolto tante volte profughi iracheni, profughi palestinesi, quindi una regione che ha sofferto molto. Accade che alcuni bambini che appunto avevano sentito questi slogan, un giorno hanno la bella idea di andare a scrivere sul muro della loro scuola lo slogan che vi ho detto prima, Eshab yurid iskat al-nizam, cioè il popolo vuole la caduta del regime. Allora io di solito quando vado nelle scuole, perché io giro molto in tutte le scuole di ogni ordine e grado, chiedo ai bambini, se voi domani faceste una cosa di questo tipo, che cosa vi accadrebbe? E tutti dicono: nota sul registro, un richiamo dal preside, al massimo una multa ai genitori che devono riverniciare il muro. Questo accade nei paesi civili, nei paesi dove i diritti umani hanno un valore. Non accade in Siria, perché questi bambini in realtà vengono arrestati e vengono portati non al locale commissariato di polizia, ma vengono portati nella capitale, a Damasco, in uno dei rami dove si pratica la tortura. Fera al-Mukhabarat al-Jawiya, cioè i servizi segreti dell'aviazione, che è uno dei rami su cui Amnesty International, anche qui vi rimando chi vuole verificare le cose che sto dicendo a leggere i rapporti di Amnesty International sulla Siria e sulla tortura, denuncia proprio come sedi di tortura. Quindi non sono carceri dove si fa la custodia cautelare e l'interrogatorio, ma sono delle carceri dove si pratica proprio in maniera sistematica anche contro i minorenni. Le famiglie di questi bambini corrono, offrendo subito uno scambio, dicendo: arrestate noi che siamo i genitori e rilasciate i bambini, e la risposta che si sentono dare è: dimenticatevi di avere dei figli. Perché questa risposta così dura? Perché quello deve essere un monito per tutta la Siria, cioè attenzione che noi non siamo la Tunisia, non siamo l'Egitto, non siamo lo Yemen e la Libia, il regime siriano è un regime solido, quindi quella deve essere una lezione per tutti i siriani. Gli agenti aggiunsero, se volete altri figli fatelo, se non sapete come farli vi portateci, facciamo anche vedere come si fanno, portateci le vostre mogli, perché questo è il livello del linguaggio della polizia siriana. Quindi io lo dico sempre anche ai miei figli, qui in Italia se è un problema, qualche giorno fa mi sono entrati i ladri in casa, abbiamo chiamato la polizia, perché la polizia è al servizio dei cittadini, è amica dei cittadini. Nei paesi dove ci sono le dittature è il contrario, quindi più li eviti, più ti senti sicuro. Quindi questa risposta non, chiaramente sconvolge i genitori, e per la prima volta però, dopo appunto quasi 50 anni di regime, il popolo si rende conto che il silenzio non è la soluzione migliore. Per cui che cosa accade? Che questa notizia viene divulgata, perché prima quando uno avevano arrestato in famiglia stava zitto per paura, perché se io ti venivo a raccontare che avevano arrestato mio fratello, tu avevi paura magari di essere in qualche modo coinvolto, per cui ogni famiglia si teneva queste notizie per sé. Quella volta invece anche noi in tempo reale, noi che siamo dall'altra parte del mare, abbiamo conosciuto questa storia, che infatti è stata ripresa da molti giornali. Alcuni giornalisti si recano anche a intervistare i familiari di questi bambini che qualche giorno dopo il loro arresto finalmente tornano a casa. Però ci sono due cose: primo, non sono tutti, e secondo, quelli che tornano a casa hanno dei segni di tortura sul proprio corpo che sono terribili, non ve li descrivo, potete andare a leggervi. Per protestare contro appunto la tortura di questi bambini e contro il fatto che i genitori dei bambini mancanti hanno chiesto ai loro compagni dove sono gli altri, e proprio i bambini hanno dato la notizia che questi bambini erano stati uccisi, in Siria per la prima volta da Ra iniziano delle manifestazioni. È il 15 marzo del 2011, data in cui i siriani fanno coincidere l'inizio della cosiddetta rivoluzione siriana contro il regime di Bashar al-Assad. Una data importante perché, come vi ho detto, un conto è fare una manifestazione in Italia, anche se non autorizzata. Un conto è fare una manifestazione in un paese dove c'è una dittatura e sapere che si va dritti o alla morte o all'arresto. Da Dara le proteste iniziano a espandersi poi in tutta la Siria in solidarietà con questi bambini, perché le persone sono stanche delle violazioni dei diritti umani. Inizialmente la cosa bella è che sono manifestazioni assolutamente pacifiche, sono manifestazioni che coinvolgono giovani, sono manifestazioni laiche, non hanno una colorazione religiosa, non vengono coinvolti partiti religiosi, coinvolgono uomini e donne e coinvolgono tutte le etnie e le religioni, quindi questo moto di protesta popolare è un moto molto bello, e tutte le attività di questo movimento di protesta popolare sono state documentate appunto perché nel periodo iniziale in Siria c'erano ancora i giornalisti stranieri, quindi si poteva raccontare, cosa che poi invece è venuta meno. Puoi mettere per favore la foto di Matar? Voglio farvi vedere la foto di un giovane. Io auspico in tutti i miei incontri che questa foto entri nei libri di storia, perché questo giovane che si chiamava questo giovane, vedete, si chiamava Riyas Matar, era un giovane siriano che ha guidato nella città di Daraya, un'altra città ai confini con Damasco, ha guidato lui il movimento... Puoi tornare, scusa, alla foto? Ha guidato, comunque va bene, anche se scorrono poi tanto le spiego tutte, non è un problema, ha guidato il movimento non violento. È un movimento di cui si parla ampiamente anche nel libro che vi ho consigliato prima, quindi movimento laico, movimento che inizialmente non chiede neanche di rovesciare il regime, ma chiede riforme e libertà. Quindi sono le due cose che chiedono i siriani, chiedono riforme, islahat e hurriye, che è una parola bellissima, che è libertà. Forse noi abbiamo perso il piacere in Occidente, dove grazie a Dio, grazie alle lotte dei vostri nonni e bisnonni, la libertà è diventata un diritto. Abbiamo perso il ricordo di cosa significa vivere privati di libertà, ma nei paesi dove c'è la dittatura esprimere una parola come libertà, hurriye, è una sfida grande. E che cosa succede? Quindi questo movimento pacifico inizia a divulgarsi in tutta la Siria, e ci sono città come ad esempio Aleppo, che è la città di cui tutti sentite parlare ultimamente, che è la capitale culturale ed economica della Siria, è la città da cui provengo anch'io, proviene la mia famiglia. Inizialmente non parte subito con la protesta, quindi ha un atteggiamento abbastanza freddo, almeno in apparenza. In realtà Aleppo, che è una città universitaria, vede i primi movimenti studenteschi lavorare in segreto, quindi organizzare dei cortei, delle manifestazioni in segreto. Tanto che però in un paese dove appunto i servizi segreti funzionano bene, iniziano le irruzioni nei campus universitari da parte dei militari, quindi le menti di questo movimento pacifico di protesta cominciano a essere arrestate. Ogni manifestazione come si chiude? Si chiude con gli spari e gli arresti. Per 8 mesi va avanti questo tira e molla, quindi giovani che scendono in piazza disarmati in una maniera non violenta a protestare, e il regime che per tutta risposta schiera la polizia e fa arrestare questi giovani. Avete visto, è passata alle mie spalle anche la foto di un'altra persona che in quel periodo ha iniziato a darsi molto da fare per la Siria, che è padre Paolo Dall'Oglio. Padre Paolo Dall'Oglio è un gesuita romano che 40 anni fa è andato in Siria. Io lo definisco italo-siriano come me, perché lui sono 40 anni che stava in Siria. 40 anni fa è andato in Siria proprio per andare alla ricerca delle radici cristiane della Siria, e si è innamorato di questo paese. Ha trovato questi due villaggi dove si parla l'aramaico, ha trovato le radici della cristianità. La città di questo ragazzo, Daraya, di cui vi ho parlato prima, è la città dove si dice sia avvenuta la conversione di San Paolo, quindi molta cristianità. E ha trovato anche tra la popolazione un clima di grande tolleranza. Quindi il siriano medio non guardava la differenza se io ero cristiana, se io ero armena, se io ero curda, se io ero musulmana. C'era un clima di grande rispetto e di affiatamento, cosa che invece il regime ha sempre cercato di sgretolare, con la logica di cui parlavamo prima del divide et impera, quindi sottolineare le differenze e creare le zizzanie tra le varie comunità. Ecco, scusa, per capire anche quanto il regime fosse stato, anche quello del padre di Bashar al-Assad, influenzato dalla religione. Loro sono alawiti, se non ricordo male. Quanto influenzava la religione il loro modo di governare il paese? Allora, Hafez al-Assad e chiaramente suo figlio Bashar appartengono a questa minoranza che in Siria rappresenta meno del 5% della popolazione e che ha preso però il potere su tutte le altre comunità. Quindi loro hanno lavorato moltissimo proprio su questa divisione. Per cui se prima gli alawiti vivevano tranquillamente con i sunniti e con i cristiani, dopo questa presa di potere, con questa violenza, e dopo che appunto il regime ha creato un sistema clientelare per cui i ministri dovevano essere alawiti, le posizioni di potere dovevano andare agli alawiti, ha creato questa antipatia tra le varie comunità. Quindi se prima ci si voleva bene, ci si rispettava pur nelle difficoltà, perché non è mai da nessuna parte al mondo rose e fiori, però invece questa logica di dividere ha giocato molto, e questo fatto di sottolineare le diversità ha creato appunto un dissapore che oggi in Siria infatti è esploso. Tornando a padre Paolo infatti, quando ha avuto il sentore che in Siria le cose stavano precipitando, ha scritto ai grandi del mondo. Lui in Siria aveva fondato un monastero, non so se qualcuno di voi c'è stato, il monastero di Mar Musa. Quindi non c'è bisogno che vi dico niente, una realtà bellissima dove cristiani e musulmani pregavano insieme, dove le messe avvenivano anche in aramaico e in lingua araba, quindi un esempio eccellente e unico, non ce n'è un altro uguale al mondo. Ha scritto ai potenti del mondo dicendo: la situazione in Siria sta precipitando, si sta andando verso la violenza, e questo tipo di violenza rischia di portare al settarismo. Cos'è il settarismo? È proprio quello di cui stiamo parlando, cioè rimarcare le differenze tra i vari strati della popolazione e cominciare a creare antipatie tra sunniti, cristiani, tra cristiani e alawiti, tra curdi e armeni e via dicendo. Questa lettera di padre Paolo non è passata inosservata al regime, tanto che nel 2012 padre Paolo Dall'Oglio è stato espulso dalla Siria ed è stato rimandato in Italia. Ora, è una tragedia per la comunità di Mar Musa, è una fortuna per noi che siamo italo-siriani, che da 2 anni o più anni parliamo con padre Paolo attraverso internet. Lui ci racconta cosa accade, noi gli raccontiamo che cosa facciamo in Italia, perché l'Italia è comunque il suo paese di nascita. E padre Paolo qui in Italia fa il giro di tante città italiane insieme a noi, proprio per raccontare quello che lui ha vissuto in prima persona e anche la sua tragedia, perché un religioso che viene espulso per aver denunciato delle violenze dà il sentore di quanto appunto il regime non si fermi davanti a nulla. Poi lo sappiamo, è rientrato padre Paolo in Siria nel 2013 clandestinamente, proprio per cercare di ravvivare dal basso questo dialogo, e sono 3 anni che manca il nostro sguardo. Che cosa accade però allora? Manifestazioni pacifiche, risposta violenta. Dopo 8 mesi dall'inizio delle proteste, il regime siriano decide di cambiare registro e dà l'ordine al proprio esercito di iniziare il bombardamento delle città insorte, delle città cosiddette ribelli o dei quartieri dove ci sono i cosiddetti ribelli. Io non uso la parola ribelli, mi piace di più la parola insorti, perché la parola ribelli viene spesso caricata di accezioni negative. Insorto invece è qualcuno che prende coscienza di essere un essere umano, di avere dei diritti, e quindi lotta per chiedere questi diritti. Quando arriva l'ordine dell'esercito di entrare nelle città, però c'è una prima importante spaccatura all'interno del regime siriano e dell'esercito siriano, perché chiaramente immaginatevi di essere in Siria e di avere dei figli militari. A questi figli militari viene dato l'ordine di bombardare il loro stesso quartiere, di bombardare le loro stesse città. E quindi è qualcosa di assurdo, per cui molti militari che cosa fanno? Decidono di disertare. I disertori, lo sapete, la legge marziale li punisce con la morte, per cui ci sono decine e decine di esecuzioni tra i giovani siriani che non vogliono andare a bombardare. Allora diventano, tra virgolette, un po' più furbi, molti di loro si allontanano con dei permessi per malattia o per il lutto di un familiare, eccetera, e cominciano ad allontanarsi dalla Siria, a disertare, lasciare l'esercito. Molti si rifugiano fuori dalla Siria, molti restano in Siria ma si rifugiano nelle campagne, per cui l'esercito si spacca, ci sono dei disertori e ci sono invece dei lealisti. I cosiddetti lealisti iniziano effettivamente a bombardare le città siriane, ad accerchiarle con i carri armati, e da lì in poi iniziano le prime fughe dalla Siria, quindi i primi profughi siriani, e inizia la mattanza di questo popolo. Che cosa fanno però questi militari disertori che sono rimasti in Siria? Prendono dei contatti con militari di altri paesi e formano un esercito parallelo, il cosiddetto Free Syrian Army, cioè esercito siriano libero. Per cui per la prima volta nella storia in Siria abbiamo 2 eserciti, uno che risponde al regime di Bashar al-Assad e l'altro, il Free Syrian Army, che è composto solo inizialmente da ex militari che si rifiutano di bombardare le città e si prefiggono come obiettivo quello di circondare invece le città e impedire l'ingresso dei loro compagni di caserma praticamente. Quindi, e se la situazione fosse rimasta così, inizialmente sarebbe stata anche piuttosto semplice, perché primo erano militari tra di loro, quindi si conoscevano le tecniche di combattimento ed erano siriani tra di loro, e molti di questi militari disertori speravano di poter coinvolgere i propri compagni, di poterli aiutare a fuggire, perché molti ragazzi che tuttora non hanno disertato sono costretti a farlo, perché sanno che o muoiono o per ritorsione vengono uccisi i loro familiari. Per cui la situazione è inizialmente abbastanza chiara, se non che stiamo parlando della Siria. Io parto sempre dalla cartina proprio perché aiuta a capire. In Siria rovesciare un regime che dura da 50 anni non significa soltanto cambiare la politica interna di questo paese, ma significa rovesciare tutta una serie di equilibri geopolitici che riguardano tutta la regione medio orientale. Guardate la cartina della Siria, se possiamo rifissarla. Allora, la Siria confina a nord con la Turchia, ha un confine di diverse centinaia di chilometri con la Turchia, che è un paese della NATO ed è un paese strategico. Poi a est confina invece con l'Iraq. L'Iraq, lo sappiamo tutti, è un paese che è da 36 anni consecutivi in guerra, un paese dove tutti hanno voluto mettere le mani perché è uno dei più grandi produttori di petrolio al mondo, e quindi è un paese comunque in disequilibrio. A sud confina con la Giordania, anche questo paese strategico perché alleato comunque con l'Occidente, un paese con una politica molto importante, e a ovest confina con questo paese talmente piccolo che neanche si vede, che è il Libano. Il Libano fa 3 volte le Marche perché ha 3 milioni e mezzo di abitanti, e pensate che oggi con 3 milioni e mezzo di abitanti ospita la bellezza di 1,5 milioni di profughi siriani. Quindi quando noi qui parliamo di invasione, di profughi, non ci rendiamo conto a volte di quello che sta accadendo laggiù, perché lo scompenso a livello proprio delle infrastrutture, degli ospedali, delle scuole, delle abitazioni, il Libano è proprio sull'orlo di un tracollo. Diciamo che peraltro è una zona che impressiona per l'alto tasso di assenza di democrazia. Assolutamente. Il Libano è quello che si salva di più. Il Libano sì, purtroppo è da anni senza un governo, infatti adesso manca un presidente, manca tutto. Quindi tutto ciò che accade in Siria o poteva accadere in Siria non avrebbe interessato solo i siriani ma tutta questa regione. Poi c'è un confine che qui non si vede, eccolo ma piccolino, anche con la Terra Santa. Ci sono le alture del Golan che sono contese tra Israele e la Siria e anche quello è un confine molto molto importante. Che cosa c'è poi? Poi vedete, se tracciate una linea tra Aleppo e Mosul, cos'hanno? E lì in mezzo c'è Raqqa, la città di cui avete sentito parlare, che l'ISIS ha nominato capitale di questo suo famigerato califfato. Che cosa c'è lì? Lì passano importanti gasdotti e ci sono grandi giacimenti petroliferi. E c'è un'altra cosa che non si vede da questa cartina, si intuisce. In quella zona passano due fiumi che sono nella storia di tutti quanti, il Tigri e l'Eufrate. E in quella particolare zona del mondo, chi ha il controllo dell'acqua, ha il controllo su tutto. Cioè lì l'acqua è più preziosa persino del petrolio. Per cui, ridico, ci sono paesi come l'Iran che non hanno uno sbocco sul Mediterraneo, per cui la Siria per l'Iran è fondamentale. Non a caso il regime iraniano sostiene il regime siriano. E c'è poi la Russia che ha deciso infatti di prendere le parti di Assad perché la dinastia degli Assad, quindi da Assad padre a oggi, è alleata con la Russia e si definisce anti-imperialista, anti-israeliana, quindi c'è tutta questa retorica anche con cui loro cercano di conquistare consensi. Peraltro la Russia è l'unica base sul Mediterraneo, l'aveva proprio in Siria. Esatto, al porto di Tartus le navi russe sono ferme da anni. E poi tra l'altro una cosa di natura economica, perché dietro la guerra lo sappiamo tutti ci dicono religione, politica, c'è sempre l'economia. La Russia e la Siria durante gli anni della guerra hanno firmato un accordo per le trivellazioni che consentono alla Russia di trivellare in acque siriane per i prossimi 20 anni. Quindi mentre i siriani fuggono, mentre i siriani muoiono in mare, mentre i siriani marciscono nei campi profughi, c'è questo accordo multimiliardario che permette appunto alla Russia di trivellare in acque siriane. Per cui la situazione è questa, inizialmente abbastanza chiara, un regime e i suoi ribelli, i siriani se la vedono gli uni con gli altri. Viene definita guerra civile, ma in realtà di civile non ha nulla, se non che appunto per tutte queste cause che vi ho elencato, in Siria cominciano ad arrivare da molte parti del mondo dei mercenari. Da dove entrano? C'è il confine con l'Iraq, che come vi ho detto è un paese in guerra da 36 anni, per cui non c'è una sicurezza, non c'è un controllo, lì arrivano uomini armati da ogni parte del mondo, e c'è il confine con la Turchia e la Giordania, che sono altri due paesi che a volte hanno chiuso un occhio facendo entrare in Siria uomini provenienti da altre parti del mondo, quindi afghani, ceceni, sauditi, tunisini. Che cosa è accaduto? Questi uomini entravano in Siria con delle scuse, con la scusa, scusate, c'ho il proiettore in faccia, entravano in Siria con la scusa di essere lì per sostenere il popolo siriano, tanto che tante volte il popolo siriano li ha accolti. Molti siriani si commuovevano, dicevano guarda questo ha lasciato il suo paese, la sua famiglia ed è venuto qui per lottare con noi, e li accoglievano nelle loro case, li accoglievano nelle loro città, se non che questi col passare del tempo sono diventati una forza. Secondo la CIA una forza di circa 50.000 uomini, quindi non pochi ma nemmeno tantissimi, che inizialmente non avevano un nome, si muovevano un po' come cani sciolti, nel senso che facevano sequestri di persone a scopo di estorsione, andavano a fare degli attentati a basi militari per prendere le loro armi, eccetera. Poi invece si sono coalizzati, si sono uniti e si sono dati il nome di Daesh. Daesh è il nome arabo che poi è diventato ISIS, cioè Islamic States of Iraq and Sham. Sham è la parola con cui viene chiamata la Siria, il Levante. Perché allora Stato islamico dell'Iraq e della Siria, del Levante? Perché? Allora, c'è una guerra in corso in Siria, c'è una guerra in corso in Iraq, una guerra che dura, come dicevamo, da anni. Perché questi mercenari stranieri vengono in Siria? Ma quando i siriani fuggono, i siriani stanno fuggendo, i siriani chiedono la pietà del mondo di finire i bombardamenti, di finire l'assedio, di finire gli stupri, le violenze, questi invece arrivano. Entrano e si dichiarano Stato, sono finanziati chiaramente da molti paesi del mondo, ricevono armi da molti paesi del mondo, compresi i paesi occidentali, e hanno un'infrastruttura mediatica altisonante, perché avete visto, qualsiasi video loro fanno viene tradotto subito in 3, 4, 5 lingue e tutti i media mainstream lo riprendono. Quindi tutto quello che loro fanno, se si cambiano le scarpe, domani c'è un articolo sul giornale che parla del cambio di scarpe di quelli dell'ISIS. Loro si definiscono Stato anche se Stato non sono, perché lo Stato, secondo le norme basilari del diritto, deve avere dei confini, deve avere un popolo e deve avere un riconoscimento da parte degli altri Stati internazionali, tre caratteristiche che l'ISIS non ha. E tirano in ballo la religione, islamico, perché? E qui arriviamo al dunque, in Siria una guerra di religione? Non è mai una guerra di religione. La religione diventa uno strumento utilissimo e molto efficace, primo per fare adepti, perché se io tiro in ballo la religione tocco i giovani arabi su un punto che è molto sensibile, perché molti di loro non hanno nessun tipo di cultura religiosa, cioè sono musulmani perché loro papà e la loro mamma sono musulmani, ma non hanno cultura religiosa, quindi non conoscono bene. E fare leva sul fatto di dire noi fonderemo uno Stato islamico dove ci sarà la legge di Dio, la parola di Dio, a molti giovani appunto che non hanno una base religiosa crea quell'elemento di fascinazione, di attrazione. Tirano in ballo la religione anche per un'altra ragione. Il mondo dei musulmani sunniti in Iraq, da quando sono iniziate queste guerre, è stato decimato. Quindi loro fanno leva su questo, noi siamo contro gli occidentali che vengono qui a bombardarvi, contro gli occidentali che hanno distrutto l'Iraq con la guerra inventata sulle scuse delle armi chimiche, quindi fanno leva su dei punti storici importanti e in questo modo sono diventati una potenza militare. Per cui in Siria non avevamo più quel quadro, tra virgolette, chiaro che c'era all'inizio, con un regime e i suoi oppositori. Ma avevamo un regime, i suoi oppositori e questa terza formazione che in Siria stava e sta tuttora combattendo una sua guerra parallela, perché gli interessi dell'ISIS, senza giri di parole, il fatto che ISIS si sia inserita a Mosul e a Raqqa, che è un paese tra Aleppo e Mosul, quindi sempre nel nord, su quella stessa via dei viadotti, la dice tutta sul loro reale interesse. L'ISIS non è andata a Damasco. L'ISIS è stata per un breve periodo ad Aleppo, poi è stata cacciata, quindi i bombardamenti di cui stiamo sentendo parlare in questi giorni, poi ci arriveremo anche coi video, sono bombardamenti che riguardano solo i civili. Non è vero che si sta bombardando l'ISIS ad Aleppo. Ad Aleppo l'ISIS non c'è. Non c'è. Ad Aleppo stanno bombardando, a Raqqa c'è, e però la stanno decimando, nel senso che non è più quella forza che era prima. Molti di loro hanno disertato. Perché molti hanno disertato? Io che vado ogni 3-4 mesi al confine tra la Turchia e la Siria, ho intervistato molti giovani, alcuni dei quali, il più giovane dei quali aveva solo 15 anni, in un ospedale al confine. Il medico mi ha raccontato le loro storie, mi ha chiesto chiaramente di non riprendere questi giovani e di garantire loro l'anonimato, cosa che io ho fatto, però li ho intervistati. Questi giovani di 15 anni, alcuni di loro stanno completamente paralizzati, quindi hanno preso dei proiettili sulla spina dorsale, tutti nello stesso modo, e sono lì in quella stanza per farsi curare, insomma, nella maniera più semplice possibile, perché molti di loro arrivano ormai quasi in fin di vita ai confini. Ho intervistato questi ragazzi siriani, alcuni di loro non siriani, che mi hanno detto di essersi uniti all'ISIS proprio perché erano affascinati da questo discorso di una giustizia divina, da questo discorso di questi giovani che venivano in loro soccorso da fuori mentre tutto il mondo li aveva abbandonati, e da questo discorso che loro erano contrari al regime. Quindi questi giovani all'inizio ci hanno creduto, si sono arruolati, hanno fatto un breve periodo di addestramento militare, se non che poi, quando li hanno messi sul campo, gli hanno detto adesso andate a combattere, a questi giovani sono stati dati degli ordini per cui questi giovani hanno aperto gli occhi. Gli è stato detto, non so, andate in questa scuola femminile e sequestrate le ragazze, oppure andate in questa caserma militare, uccidete tutti i militari e prendete loro le armi, oppure sequestrate quel tizio e fatevi dare tutti i suoi soldi. Per cui hanno capito questi giovani che non si trattava di una guerra di libertà, di una guerra per l'indipendenza, ma proprio di atti, di veri e propri crimini, di barbarie, il sequestro delle ragazze davanti alle scuole, il sequestro delle persone a scopo di estorsione. Per cui quando molti giovani si sono resi conto delle reali intenzioni di questi uomini dell'ISIS, cosa hanno fatto? Hanno cercato di disertare. E l'ISIS non risparmia le persone, non ha pietà, non è che li uccide, perché almeno morto smette di soffrire. Sparano loro sulla spina dorsale proprio perché loro diventino un simbolo per tutti gli altri, cioè che quella è la punizione di quelli che loro considerano traditori. Io sono rimasta allibita quando ho intervistato questi giovani, perché io ho un figlio di 18 anni, come vi ho detto, e uno di 15, quindi potevano essere benissimo ragazzi dell'età dei miei figli, dell'età dei vostri figli, e vedere dei ragazzi ridotti in quel modo, che prima hanno subito il lavaggio del cervello, poi sono stati puniti, è sicuramente terribile. Si tenga presente peraltro che il lavaggio del cervello non è... non avviene solo su base ideologica o religiosa, molto spesso anche attraverso l'utilizzo di sostanze stupefacenti. Molto. Che va a combattere sotto effetto di droghe. Hai toccato un punto importante, perché infatti queste persone hanno droghe a loro piacimento, e una delle... Che cosa accade? L'ISIS perché ha messo le mani sui giacimenti petroliferi? Perché quel petrolio lo vende. Quindi anche lì, se volessimo aprire una pagina su chi sta comprando il petrolio su cui l'ISIS ha messo le mani, scopriremmo degli altarini terribili. Non è l'argomento di oggi, e la storia lo dimostrerà, però molti paesi stanno comprando quel petrolio a poco prezzo su cui l'ISIS sta mettendo le mani, e in cambio cosa danno? Soldi, e danno anche droghe. Perché questi giovani, per fare gli attentati che fanno, non sono sani di mente. Per farsi saltare in aria, non è che la mattina hanno fatto la doccia, hanno fatto la preghiera e hanno detto oggi vado a farmi saltare in aria. C'è tutto un processo per cui loro iniziano a essere dipendenti dalle droghe, che fanno percepire, cambiano loro proprio il modo di percepire la vita, di percepire il senso del pericolo. Perché i foreign fighters? Perché tanti ragazzi si sono uniti appunto a questo famigerato califfato? Proprio per questo discorso della fascinazione. Cioè molti giovani che qui in Europa magari si sentono un po' esclusi, o si sentono trattati da stranieri, hanno voglia di provare emozioni forti, in ISIS hanno trovato questo. Se voi analizzate la campagna mediatica che loro usano, loro non usano una comunicazione base come quella che abbiamo noi, è molto studiata, molto coreografata. Qui vi invito ad andare su internet a cercare i reportage di Amedeo Ricucci, che è un bravissimo giornalista della RAI, che ha realizzato anche dei filmati sull'IDIS con delle indagini, per farvi vedere proprio come loro, anche i video con le decapitazioni dei giornalisti stranieri che hanno fatto, non sono in realtà fatti in mezzo al deserto, in mezzo al nulla, ma sono fatti in studi televisivi con tanto di microfonatura. Vi ricordate quel dettaglio lì? Era un dettaglio, era capitato, e le persone che venivano sgozzate avevano il microfono come quello degli studi più sofisticati, non avevano il microfono che si tiene in mano. Quindi lì c'è tutto un'operazione di smontaggio di queste immagini per far capire che tutto è studiato per colpire. Che cosa si può fare per chiudere la parentesi ISIS? Che cosa si può fare per sconfiggere l'ISIS? Quello che è stato fatto per sconfiggere Al-Qaeda, cioè primo sarebbe interrompere i finanziamenti, perché i mercenari sono persone che sono pagate per andare a combattere, non vanno a combattere così e basta per un ideale, vengono pagati. Per cui interrompere i finanziamenti già sarebbe il primo modo. Secondo, interrompere i finanziamenti delle armi, perché senza armi non vanno da nessuna parte, tanto che oggi da Mosul e da Raqqa stanno fuggendo. E il terzo è anche chiudere loro questi canali di propaganda. Perché io voglio dire, se io domani mettessi a scrivere degli insulti su internet, chiunque risale al mio IP mi segnala, la polizia postale mi trova in 3 secondi e mi chiude il sito oppure la pagina. Scusa, facciamo nome e cognome, però interrompere i finanziamenti significa penalizzare chi sta finanziando realmente l'ISIS in questo momento? Diversi paesi sia arabi che stranieri, perché finanziare la guerra dell'ISIS significa allungare la guerra in Siria. E sono molti gli attori internazionali che hanno questo interesse. Cioè spesso si fa la sintesi, Arabia Saudita e Qatar finanziano l'ISIS, non sono solo loro. Ci sono molte più mani interessate affinché la guerra in Siria continui. Poi chiaramente bisogna parlare con i documenti in mano, con le prove in mano, ma questo sarà la storia a dimostrarlo, così come anche Al-Qaeda. Però se aspettiamo la storia diventa un po' troppo tardi, forse bisognerà... È già troppo tardi, in Siria la guerra sta entrando nel suo 6° anno consecutivo, quindi la guerra in Siria sta durando più della seconda guerra mondiale, e non è possibile pensare che... oggi c'è una coalizione internazionale in teoria in Siria che sta combattendo contro l'ISIS. Posso fare una domanda? Sì. Che interessa l'Iraq e l'Arabia Saudita e Kuwait a finanziare l'ISIS? Qatar. Ma molti e nessuno, nel senso molti perché per l'Arabia Saudita mettere un piede in Siria significa fare lo sgambetto all'Iran. L'Arabia Saudita è il maggior paese sunnita del mondo, quindi per loro è anche una guerra di potere e di controllo delle masse. L'Iran è il maggiore paese sciita del mondo, quindi tra di loro il controllo su quella zona del mondo è molto importante, quindi finanziare una guerra in quel senso può avere questo significato. In realtà non ha nessun interesse, perché per esempio in Arabia Saudita chi viene scoperto ad avere legami col terrorismo viene condannato alla pena di morte. Per cui da fuori può sembrare, no, la classica logica, Arabia Saudita e Qatar finanziano l'ISIS, e da dentro invece le dinamiche sono molto diverse, perché se andiamo a sviscerare i vari attori protagonisti vediamo che l'ISIS è stata funzionale, l'ISIS è servita moltissimo a qualcuno in Siria, primo perché ha creato questo terzo attore protagonista nei combattimenti, per cui se prima l'esercito libero doveva combattere solo contro Assad, a un certo punto si è trovato a combattere anche contro questi mercenari stranieri, che sono tra l'altro preparatissimi dal punto di vista militare. Molti di loro provengono da altre guerre, dall'Afghanistan, dalla Cecenia, dall'Iraq, non sono degli improvvisati combattenti. Che cosa ha creato tutta questa situazione in Siria oggi? Torniamo sul piano che mi interessa di più, quello umanitario. Ha creato quella che l'ONU, appunto, dicevamo all'inizio, ha definito la più grande tragedia umanitaria dopo la Seconda Guerra Mondiale. Allora, noi siriani siamo circa una popolazione di 23 milioni di abitanti. Oggi quasi 10 milioni di siriani sono sfollati o profughi. Quindi c'è una metà della popolazione siriana, una popolazione che nella storia non ha mai conosciuto la fuga, perché noi siriani accoglievamo. Abbiamo accolto gli armeni, abbiamo accolto i curdi, gli iracheni, i palestinesi, chiunque fuggiva in quella zona veniva in Siria. Scusa, ti interrompo un secondo, sì. Qui c'è Malik Fallah, che è siriano, avido bolzano da tanti anni, che mi raccontava proprio la storia, per esemplificare, della sua famiglia, che ha ospitato profughi che arrivavano un po' dappertutto, casa tua era un po' di qua. Dall'Iraq, dal Kuwait, quando è stata invasa dall'Iraq, no? Abbiamo ospitato tutti. Lui è l'esempio vivente di come dell'ospitalità, esatto, siriana. E oggi invece i siriani si trovano ad essere quasi 3 milioni in Turchia, 1,5 milioni in Libano, 900.000 in Giordania e quasi 500.000 che, nonostante l'Iraq sia in guerra, quasi 500.000 si è riversato in Iraq. Quelli che hanno cercato altre vie di fuga sono andati in Egitto e in Libia, però sapete, in questi due paesi c'è un'instabilità terribile, per cui da lì sono iniziate le prime migrazioni dei siriani via mare, quindi pagano scafisti, li pagano a peso d'oro, perché ogni famiglia paga a singolo un minimo di $1,500, quindi hanno venduto tutto. Quelli che sono venuti in Italia e in Europa via mare, che noi guardiamo come poveracci, in realtà non sono altro che il ceto medio e borghese, tra virgolette, della Siria, cioè quelli che si sono potuti permettere di pagare anche 10-20 mila dollari agli scafisti per tentare di mettere in salvo le proprie famiglie, perché poi l'avete vista tante volte le immagini delle tragedie in mare. E chiusa questa via qui, chiuso Mare Nostrum, invece hanno tentato un'altra strada, che è quella dei Balcani, vi ricordate, dalla Siria alla Turchia, dalla Turchia alla Grecia e poi all'Europa, la Macedonia, eccetera. Lì abbiamo visto fili spinati, abbiamo visto muri, abbiamo visto stati chiudere i propri confini, quindi è stato un calvario per i siriani cercare di fuggire. E qua la domanda si pone da sola, ma se dovevano pagare tutti questi soldi agli scafisti, non potevano viaggiare legalmente? Se qualcuno gli avesse dato la possibilità di un corridoio umanitario sicuro, sicuramente non si sarebbero rivolti agli scafisti, perché gli scafisti chi sono se non una mafia internazionale che lucra su queste persone? Io, che vi dicevo, vado spesso a Istanbul, ho visto in Turchia, ho visto una piazza ad Istanbul dove si ritrovano i siriani che vogliono tentare di venire clandestinamente in Europa. Ed è tutto perfettamente funzionale, quindi il passaparola con questi mercenari, questi venditori di esseri umani, funziona bene. Le persone che hanno 2 lire in tasca, che vogliono fuggire dalla Turchia, si rivolgono a questi cosiddetti passeur, che clandestinamente cercano di far attraversare il confine, e tutto avviene abbastanza alla luce del sole, perché l'ho visto io, l'hanno visto in tanti, ma nessuno ferma questa realtà. Perché? Perché la comunità internazionale, in quasi 6 anni di guerra, non ha risposto a 2 richieste che i siriani sostanzialmente facevano. Primo, la creazione di una no-fly zone, che avrebbe salvato centinaia di migliaia di vite umane e non avrebbe permesso la distruzione di intere città come appunto Daraya, come Homs, come Aleppo. E l'altra cosa era la creazione di corridoi umanitari, perché oggi qualche corridoio umanitario è stato creato, come ad esempio la comunità di Sant'Egidio ha creato, però non partono dalla Siria, partono dal Libano, quindi sono già arrivati profughi in un altro paese. E questo è quanto, quindi la Siria oggi sta vivendo questa situazione, ci sono appunto 1,5 milioni tra mutilati e feriti che non sanno dove andare. Perché? Perché la guerra in Siria ci ha fatto vedere la violazione di tutte le convenzioni internazionali sui diritti umani, l'avrete sentito sicuramente nei telegiornali, in Siria vengono bombardati deliberatamente gli ospedali. Pensate che Aleppo, che io prima ho definito la capitale economica e culturale della Siria, paragonatela un attimo a Milano. Immaginate una città grande come Milano, dove prima della guerra c'erano 3,5 milioni di abitanti. Un po' più bella di Milano, non diciamo Roma allora. Pensate, in una città così grande non è sopravvissuto nemmeno un pediatra. Io ho dedicato un articolo all'ultimo pediatra che è stato assassinato, proprio perché è allucinante, noi non ci rendiamo conto, non c'è più neanche una banca dati del sangue, una banca del sangue, non ci sono più ospedali. Allora come funziona? Chi si ferisce dove va? Va in quelli che noi cerchiamo di aiutare, che sono i cosiddetti ospedali da campo. Cosa sono gli ospedali da campo? Cioè sono degli ospedali di fortuna dove medici e infermieri e volontari allestiscono delle piccole sale e con gli aiuti che arrivano a gran fatica dall'estero cercano di assistere i feriti e i malati. Spesso non hanno condizioni igieniche adatte, spesso mancano i farmaci, però è l'unico modo che hanno per cercare di sopravvivere. Posso interromperti? Certo. Gli aiuti che arrivano con grandi difficoltà dall'estero, sei stata zitta fino adesso, mi coinvolgo, perché... Prima hai fatto una parentesi, cosa possiamo fare? Qualcosa possiamo fare attraverso Sur Italia, qui rappresentata da Marina Baranzi. Allora, Sur Italia, buonasera a tutte e tutti. Sur Italia è un'associazione che è nata nel 2012 ufficialmente, anche se diciamo, l'attività di invio di aiuti è partita praticamente contestualmente all'inizio delle prime violenze. Io ho conosciuto Asmè nel 2011, avevamo organizzato un flash mob insieme e devo dire che appena io ho letto il suo nome su un messaggio che mi aveva mandato un'amica dicendomi ti presenterò questa ragazza siriana, ho sentito un feeling a distanza, ho pensato questa è una persona con cui andrò d'accordo e devo dire che è nata una bellissima amicizia. A onor del vero, inizialmente tutti hanno sottovalutato quello che stava succedendo in Siria e personalmente quando ho iniziato a vedere le prime immagini che giravano soprattutto su Facebook, in rete, di bambini maciullati, di case distrutte, la prima reazione è stata io non guardo, cioè, stare male questa cosa è troppo, come fai a guardare il corpo di un bambino ucciso in una scuola, in un ospedale? E poi a un certo punto, un giorno, ho deciso che mi sentivo vigliacca e che volevo guardare quello che stava succedendo, ho iniziato a guardare video e foto e ho ricontattato Asmè, perché per un periodo all'inizio poi non ci eravamo più viste, perché volevo sentirmi in qualche modo utile, cioè non potevo rimanere ferma senza fare niente, cioè mi rendevo conto che a livello di macrosistema nessuno di noi ha il potere di risolvere la situazione, però ciascuno di noi può comunque dare un contributo. Loro hanno fondato questa associazione che è attiva adesso in tutta Italia, che si chiama Sur Italia e che parte da un concetto molto semplice: bisogna aiutarli lì in Siria, quello che poi dicono sempre sui giornali, in televisione, aiutiamoli a casa loro. Volendo si può cercare di aiutare le persone a non scappare, a non morire poi in mare. Cosa fa Onsur? Onsur acquista con le donazioni che riceve ambulanze usate, quindi ambulanze italiane, spesso le riceve anche in regalo perché vengono dismesse perché ormai fuori norma o comunque vecchie, le riempie di medicinali che vengono raccolti durante eventi o che vengono donati da case farmaceutiche o che vengono acquistati da altre associazioni che a loro volta organizzano eventi di beneficenza, vengono caricati, le ambulanze vengono caricate di medicinali e vengono trasportate su container da Ancona, quindi partono dal porto di Ancona in Turchia, dalla Turchia al confine e tramite contatti che negli anni Onsur ha sviluppato con siriani e medici che resistono in Siria, le ambulanze attraversano il confine e vengono utilizzate per dare soccorso ai feriti, e i medicinali vengono utilizzati in questi ospedali di campo di cui parlava Smè. Purtroppo qualche volta girano anche i video delle ambulanze italiane donate da Onsur, bombardate, schiacciate, rimaste sotto qualche crollo di qualche palazzo. Devo dire che fa molta impressione. Però Onsur non fa solo questo. Con ASME abbiamo organizzato tante cose con Nadia, coinvolgendo amici, colleghi, parenti. Abbiamo organizzato cene per raccogliere fondi, abbiamo organizzato raccolte di vestiti, di scarpe, di materiale sanitario. Abbiamo organizzato tante raccolte di giochi per i bambini, di materiale scolastico. Abbiamo portato ASME a scuola delle nostre figlie. Questo per dire che chiunque di noi, se vuole, può fare qualcosa. C'è chi può fare una donazione, donare qualche soldo, c'è chi può mettere a disposizione il proprio tempo, associazioni ce ne sono ovunque. Io mi sono avvicinata a Onsur perché Onsur è attiva nella zona dove sto io, però in tutte le città, in tutte le realtà italiane ci sono, per fortuna, associazioni e persone che si mettono a disposizione per aiutare chi è arrivato fin qui, ma anche chi legittimamente vuole restare nella sua terra. Io devo dire, mi sento onorata di poter fare questo, perché se un giorno le mie figlie mi chiederanno: tu cosa hai fatto quando questo succedeva? Perché prima o poi la storia, come diceva Asmè prima, ci chiederà il conto di quello che sta succedendo. Perché non so perché, io faccio sempre parallelo con il nazismo e l'olocausto. È stato chiesto ai tedeschi: voi dove eravate, ai germanici, quando succedeva quello? Ma loro almeno possono dire: non lo sapevo. Una buona parte della popolazione forse effettivamente non sapeva quello che stava succedendo allora. Ma noi questo alibi ce l'avremo? Non credo, perché chi vuole sapere oggi non può sapere. Le informazioni ci sono. Non ho sentito. Ho detto che i campi di concentramento non sono tre o quattro, ma sono tutto sparpagliati nella Germania. Sì, ok, lo sapevano tutti, però non avevano il livello di informazioni che abbiamo noi adesso, sì. Questo voglio dire. Non avevano la televisione. Non avevano internet, non avevano la televisione, era comunque diverso il contesto era diverso. Noi non abbiamo nessuna giustificazione e nessun alibi. Non potremmo più, non potremmo dire: non lo sapevo, non ho fatto niente perché non lo sapevo. E la storia ci chiederà conto di quello che sta succedendo adesso, perché assistere indifferenti all'eccidio di centinaia di migliaia di donne e bambini, perché poi le vittime sono donne e bambini, è un crimine contro l'umanità ed è qualcosa che ci riguarda tutti. Su questo, scusa, voglio aggiungere una cosa a proposito dei bambini. Perché tante volte si parla dei bambini e le immagini mostrano bambini? Perché il 70% della popolazione siriana ha meno di 30 anni. Il 70% della popolazione, quindi una popolazione di giovani e giovanissimi. E su questo voglio aggiungere una cosa, che Marina, tutte le volte che io sono riuscita ad entrare clandestinamente in Siria durante la guerra, due volte, nel 2013, la voce mi sta abbandonando, e nel 2014. E poi tutte le volte vado comunque al confine, dove vado a trovare bambini negli orfanotrofi, negli ospedali da campo, eccetera. E ogni volta, Marina, ogni volta che parto mi infila nello zaino un peluche o una bambolina. E tutte si chiamano Marina, in ogni viaggio c'è la Marina di turno. E l'ultima volta Marina erano due cavalli colorati, anche, ed è una cosa bellissima, perché io chiaramente nel mio zaino posso portare solo la mia attrezzatura, quindi video, foto, eccetera. E però in mezzo all'attrezzatura infilo questi peluche e ogni volta finiscono nelle mani di una bambina o di un bambino orfano, e poi mando la foto a Marina, perché non è possibile documentare dove vanno le centinaia di peluche o di quaderni o di farmaci che mandiamo, perché chiaramente non stiamo parlando di un invio in un paese in pace. Tante volte anche documentare che in quel magazzino sono arrivati centinaia di scatoloni di farmaci è pericoloso, perché poi lo prendono di mira. Quindi, come dice Marina, giustamente più del 90% degli aiuti che noi raccogliamo e mandiamo in Siria vengono proprio da italiani, perché noi siriani in Italia non siamo tantissimi, e ognuno di noi si è rimboccato le maniche nella sua zona, creando un'associazione o aderendo a altre associazioni, cercando di aiutare. Per cui la generosità del popolo italiano veramente non l'abbiamo potuta toccare con mano, perché non c'è una sola volta che abbiamo organizzato un'iniziativa in cui non ci sia stata una bellissima risposta. Ci stava andando la voce, quindi possiamo anche andare verso la conclusione. Io ho ancora curiosità. Vediamo un video. Sì, prima il video e poi sì, magari c'è anche qualche domanda del pubblico. Sì, allora farei, se siete d'accordo, farei vedere prima due video. Uno che è, allora farei vedere il numero 1 e poi il numero 3. Il numero 1, però, vi avviso, è un video girato ad Aleppo dove ci sono anche delle immagini abbastanza forti, perché chiaramente stiamo parlando di un paese in guerra. Non so se volete far uscire le bambine oppure... Sono immagini girate ad Aleppo da citizen reporter, cioè da giornalisti locali, che documentano che cosa accade tutti i giorni dopo i bombardamenti. Possiamo spegnere la luce che si vede meglio? Questa scritta vuol dire: che colpa abbiamo? La bambina chiede: che colpa abbiamo? Cercare di salvare Aleppo, e vi racconta la quotidianità di quello che sta accadendo nella mia città. Adesso invece faccio entrare anche le bambine, se volete vediamo il video di Onsur, di cosa, le attività che facciamo, il video numero 3 per favore, così almeno respirate un po'. People like us, we don't mentre raccogliamo le vostre domande, facciamo vedere senza audio però un video su com'era Aleppo 6 anni fa, per farvi vedere com'era la città che avete visto ormai in macerie. E quindi se ci sono domande vi invito a proporre, come avete visto la conoscenza, se no faccio io una domanda. Prego. È difficile essere ottimisti, credo, in questo tipo di situazione, anche perché ogni giorno che passa c'è un nuovo fronte che si apre, una nuova forza armata che entra in questa guerra che non è più civile, come hai detto. Intanto mi chiedo se gente come te o come Falì pensa alla ricostruzione della Siria, da dove si partirà, se mai si partirà con la ricostruzione della Siria. Dunque, ricostruire un intero paese in macerie sarà difficile sicuramente. Io che vengo dalle Marche, sapete, abbiamo avuto a causa del terremoto dei danni in tutta la regione, con degli interi borghi, delle intere cittadelle rase al suolo dal sisma. Guardo quelle immagini e mi viene in mente la Siria, guardo Amatrice e mi viene in mente Aleppo, la stessa desolazione, quindi il patrimonio del passato, il patrimonio dei nostri nonni, della nostra storia che non esiste più. Però quello che mi preoccupa tanto è che poi penso invece all'Europa della Seconda Guerra Mondiale, a città come Berlino e Londra completamente distrutte, che sono state poi in qualche modo ricostruite, quindi la speranza che il mattone venga ricostruito ce l'ho. Quello che invece mi preoccupa moltissimo, che forse non potrà essere ricostruito, è quel tessuto sociale così coeso, quell'amore che i siriani avevano tra di loro, quel fatto che mio padre e mia madre usano l'espressione Aeb, cioè indelicato chiedere all'altra persona di che etnia o di che religione sei. Erano tutti siriani, non guardavano queste differenze. Oggi invece tutti guardano le differenze, quindi prima di rivolgerti la parola devo capire chi sei, per sapere se sei il mio nemico o se qualcuno della tua famiglia ha ucciso qualcuno della mia. E quindi sta vincendo Bashar al-Assad. Quindi in questa logica sta sicuramente purtroppo vincendo Bashar al-Assad, sia per gli strumenti di propaganda che ha, sia per il fatto che comunque con una metà della popolazione che sta fuori o sta in una situazione di grave difficoltà, la coesione sociale sta venendo meno e quindi anche si stanno accentuando appunto le differenze. Alcuni parlano di una futura potenziale balcanizzazione della Siria, cioè di una Siria divisa per etnie, per religioni, ma io non credo, magari l'amico siriano può rispondere anche lui. Non credo che questa possa essere una strada, perché dividere la Siria per etnie e per religioni è come dividere il capello in quattro, è una cosa impossibile. I siriani sono siriani perché erano così storicamente, quindi è lì che bisognerà lavorare, cioè dividere, mettere da parte i rancori che questi 6 anni di guerra hanno indubbiamente creato, e cercare invece di lavorare su ciò che unisce, sull'interesse delle future generazioni. Sì, poi al di là dei danni materiali ci saranno le ferite nell'animo, che non è solo un modo di dire, perché un bambino di 3, 4, 5 anni che vive tutti i giorni con la guerra, vedendo la morte. Poi, scusa, se su questo punto purtroppo non si vuole vedere o non si vuole intervenire, ma ci sono generazioni di bambini che non sono scolarizzati. Sesto anno senza scuola con traumi psicologici gravi, su cui nessuno ha modo di intervenire, si creano i presupposti per una generazione di disadattati, di violenti, di depressi, comunque di persone che non potranno avere un equilibrio stabile, per cui è una bomba a orologeria sociale purtroppo, per cui non solo si pregiudica il loro futuro, perché sono bambini che non imparano a leggere, non imparano a scrivere, se non in scuole di fortuna, quelli che ci arrivano, ma comunque non avranno neanche la possibilità di sviluppare la loro personalità in modo sano, sereno ed equilibrato. Cioè noi che siamo genitori sappiamo quanto un singolo evento sui nostri bambini può farci sentire preoccupati, magari esagerando pure, portiamo anche dallo psicologo. Questi sono bambini che hanno assistito alla morte dei genitori, dei vicini di casa, orfani, feriti. Chi ripara le loro ferite psicologiche? Considerano tutto questo abbastanza normale. Appunto, la violenza diventa parte della loro vita e sappiamo benissimo che sono meccanismi scientificamente dimostrati, per cui c'è poi il meccanismo di replica, no? Quindi sei portato a replicare lo stesso tipo di violenza che hai subito tu, per cui questo sarà un problema che prima o poi si dovrà affrontare, perché adesso sono bambini, sì, diventeranno degli adulti, questi adulti che futuro avranno e comunque coinvolgerà anche noi questa tragedia necessariamente. Non siamo così lontani, anche se pensiamo di poter vivere nel nostro mondo, diciamo, comunque privilegiato, non potremo, perché chi fugge dalla morte comunque fugge. Speriamo che questa serata vi abbia fatto sentire un pochino più vicino a questa guerra. Un attimo, perché... ci vede la fine di questo conflitto o no? 6 anni va bene, però. Allora, dal punto di vista giornalistico posso dire che attualmente sul campo è stato dato il via a un'operazione nella città di Raqqa, che è la città che appunto l'ISIS ha preso in ostaggio definendo la sua capitale. Però anche lì la scelta della comunità internazionale di armare chi e di sostenere chi, cioè a Raqqa non è stato mandato l'esercito siriano libero o l'esercito di Assad a eliminare l'ISIS, ma sono state armate le milizie curde, quindi anche lì si fa una scelta di campo. Io da fuori scelgo chi deve combattere e chi deve prendere il controllo del territorio. Per cui in realtà Assad dice che almeno fino al 2017 per il bene del suo popolo rimarrà lì. Assad dice che dorme sogni tranquilli perché ha la coscienza a posto. Le grandi potenze. Allora, guardi, a me veniva in mente prima. Il signor Barack Obama, premio Nobel per la pace del 2009, l'ho detto all'inizio, ha dedicato pochi istanti del suo discorso. Sì, del suo successore, si dice quello che si dice, non è che siamo messi molto bene. No, ma la cosa io mi do il beneficio alimentario perché molto allora, spesso i personaggi politici vengono descritti alla stampa un po'. Noi abbiamo un'organizzazione nazionale, mondiale, foraggiata con miliardi e miliardi di dollari. Allora, non so se avete letto recentemente che dello scandalo che è venuto fuori, per farvi capire che idea abbiamo noi siriani ormai dell'ONU, che l'ONU in Siria per la distribuzione degli aiuti umanitari assume familiari di Assad. Cioè, è una situazione veramente paradossale. È una situazione paradossale. Se avete qualche amico balcanico, chiedete anche a loro come ha funzionato bene l'ONU. Cioè, quando hanno bombardato l'ultimo convoglio umanitario entrato sotto l'egida dell'ONU, nessuno ha battuto ciglio. C'è un convoglio umanitario internazionale entrato sotto l'egida dell'ONU, cioè un conto quando entriamo noi e bombardano e lì non siamo sotto l'egida di nessuno, anche se in teoria i convogli umanitari non andrebbero bombardati. Un tempo si diceva è come sparare sulla Croce Rossa, oggi sparano anche sulla Croce Rossa. Ma dopo che sono stati bombardati gli ospedali, dopo che è stato bombardato questo convoglio dell'ONU ed è stato ucciso il capo della Croce Rossa, Mezzaluna Rossa di Aleppo, e nessuno ha battuto ciglio, davanti a cosa si fermeranno questi? Nulla. Cioè Assad continua col fatto di dare dei terroristi a tutti coloro che sono suoi oppositori. Io ho intervistato la crema dei giovani siriani che sono riusciti a fuggire, tutti studenti, tutti piccoli imprenditori, imprenditrici, medici. Molti di loro sono stati in carcere con l'accusa di terrorismo solo per aver partecipato a una manifestazione. Agli occhi di Assad io sono una terrorista, Marina è una terrorista, perché stiamo denunciando. Cioè, quello è il vero guaio, che oggi il terrorista vero, quello che uccide, che stupra, ha anche gli abiti dello Stato. Non è solo il mercenario dell'ISIS, ma quando uno Stato nelle sue carceri stupra le persone, tortura le persone, l'Amnesty International lo denuncia e loro hanno il coraggio o la sfacciataggine di accusare Amnesty International di dire bugie. Cioè è grave. La tecnica del dittatore, no? Sì, esatto. Il problema è che i sovietici facevano così, parlando del futuro della Sì. Ma quanti giovani, la percentuale dei giovani sotto i 30 anni quant'è? 70% della popolazione. Allora, a mio modesto avviso, saranno quelli che faranno la Siria. Vero? Se sopravvivono, sì. Pochi o tanti saranno loro che faranno la Siria. Certo. Però la memoria della vecchia Siria ce l'avranno? È questo che dicevo prima, cioè chi è dovuto emigrare, chi è dovuto fuggire, con la Siria che viene bombardata, anche un giorno torna in Siria, non c'è più nulla. La memoria della Siria, è quello, cioè il patrimonio culturale, artistico. Noi ad Ancona con l'Ordine dei giornalisti delle Marche abbiamo dato sostegno a un'iniziativa bellissima, c'è Don Armando Pierucci, non so se ne avete sentito parlare, che è un francescano se non sbaglio, che ha creato un coro internazionale, soprattutto con ragazzi del Medio Oriente, di tutte le religioni, un coro per la pace. A lui si sono rivolti dei musicisti cristiani siriani dicendogli che tutto il patrimonio della musica sacra cristiana è orale, e gli hanno detto che se questo patrimonio non viene subito scritto e salvato, con questa guerra è un patrimonio che verrà distrutto. Per cui con l'ordine dei giornalisti delle Marche è stato dato il via a un'iniziativa che ha raccolto dei fondi per permettere a tutto questo patrimonio, che finora è orale, di diventare scritto, di essere registrato. Però c'è tutto poi il patrimonio della musica sufi siriana, quella chi la salverà non si sa, c'è tutto il patrimonio delle tradizioni, della scrittura, magari il fratello, se vuole intervenire, perché lui la Siria l'ha vissuta più di me, io l'ho vista solo durante le bombe. Cioè, la Siria non è solo dei siriani, ma di tutti voi, perché è patrimonio dell'umanità. I due o tre imperatori romani erano siriani. Sì, Siria, siriani. Noi chiamiamo imperatori. Se vuoi romani, magari ma erano aggiungere siriani, qualcosa erano. Sulla Siria. Io so che siamo incoraggiati, intrappolati per fare questa guerra, perché come dicevi anche il presidente Obama, non passava all'inizio una settimana che non faceva delle parole che il presidente Assad ha definito, ci sono delle linee rosse, che non bisogna attraversare queste linee rosse. Invece purtroppo si è ammazzato quasi metà del popolo siriano e nessuno più apre la bocca, e adesso tutti incoraggiano di nuovo questo presidente siriano di tornare al governo. Scusa, tu hai contatti, poi anche chiudere, tu hai contatti frequenti con ancora con la Siria, amici sì. In Siria. Loro cosa pensano? Cosa pensano? Salvarsi perché in realtà i siriani che sono in Siria. I siriani che sono in Siria. In Siria sperano sempre di vincere, veramente. Sperano in chi? Però questa speranza per me è impossibile, perché è diventata troppo complicata. Adesso la Russia ha due basi molto grosse in Siria, sul mare lì, a Tartus e l'Attachia. L'America ha due basi anche molto grosse, lì a Raqqa e anche a Lasaka, dove c'è il petrolio con i curdi. Gli iraniani hanno due basi anche molto più grosse vicino a Damasco, no? Gli inglesi hanno una base vicino al confine con la Giordania, e poi quelli del sud del Libano anche. Perciò è diventata molto complicata. Si vede che era una cosa, un complotto internazionale, no? E che ha pagato il popolo siriano. Il popolo siriano sta pagando una fattura, una cifra che nessun popolo le ha pagato. Adesso io ho parlato prima, veramente il pomeriggio, con uno che sta a Dubai. Il suo padre dentro in Siria, i suoi fratelli in Turchia, nessuno di loro riescono a unirsi, perché la Turchia chiede il visto ai siriani. Al papà che c'è in Siria non lasciano andare in Turchia, e il figlio non può venire da Dubai in Turchia a vedere i fratelli, non riescono a unirsi. Adesso ci sono dei familiari che quando sono scappati, che si trovano la mamma e il papà magari in Egitto, e il figlio in Turchia, e l'altro figlio e la figlia in Svezia, no? E si mettono solo in contatto così via telefono, via. Stanno pagando una cosa, ci sono dei bambini che sono usciti. Noi abbiamo ospitato qua un bambino di 13 anni, è rimasto da noi a casa quasi 3 settimane, che è della moglie qui, 3 settimane, perché era con il zio, viaggiava, poi al confine al Brennero è salita una pattuglia di controllo. Questo bambino ha paura, è sceso del treno. E il zio è rimasto con il treno, partito il treno, e il bambino è rimasto. Ci hanno portato la polizia qui, ci hanno avvisato che c'è un bambino, le volete tenere voi? Sì, teniamo volentieri. È rimasto 3 settimane, mai visto un bambino educato come questo qua. E poi dopo 3 settimane, l'abbiamo trattato più dei nostri figli, per non farlo sentire niente. E invece lui dentro di sé soffriva, perché quando ha visto un altro zio venuto qua a prenderlo, piangeva in modo come fosse moriva e poi si andava. Sono cose per me davvero difficili da immaginare. Spero che questa serata ci serva ad immaginarle un pochino di più e renderci conto di questa situazione. Comunque la signora, sono bravi, è la mia testimonianza. Noi seguiamo chi lavora per la Siria con il suo papà, un medico, con tutta la sua famiglia. Da quando è iniziata questa faccenda, loro veramente ambulanze, medicinali, tutte quelle cose lì lavorano e prendono le occasioni in qualsiasi momento, a qualsiasi posto, per dare una mano al nostro popolo. Grazie. Grazie davvero, Smeda Shah. Grazie. un attimo di pazienza, ma ne vale la pena. Vorrei solo leggervi una poesia, perché io scrivo anche poesie e ho dedicato due libri di poesia alla Siria. E visto che si parla di cosa si può fare e qual è il futuro della Siria, questa poesia si chiama Eutanasia, quindi ha un titolo molto forte. Intorno al corpo immobile, mute sagome in silenzio piangono la loro eutanasia, di anime uccise dal peso di un addio. Un orologio immobile scandisce il cammino del feretro delle coscienze, s'arrampica l'oreandro, ornamento ingannevole, soffoca il grido di libertà. Grazie.